in primo piano. I giornali in realtà aprono su temi diversi, per esempio c'è ancora l'appendice delle polemiche scoppiate dopo la frase di Bertolaso sugli aiuti ad Haiti, vale a dire aiuti patetici li ha definiti Bertolaso. Ieri è dovuto intervenire Berlusconi e i maggiori quotidiani aprono su questo. Berlusconi sconfessa Bertolaso, così il Corriere della Sera. La Clinton si dice ancora feriti dalle critiche e il Premier puntualizza Stati Uniti decisivi ad Haiti. Così la Repubblica, Berlusconi, scuse alla Clinton, su Haiti Bertolaso ha sbagliato. La Stampa, Clinton ferita dalle accuse. Per Avvenire, tende e viveri per Haiti non c'è tempo. Insomma, questo è un tema, addirittura sul Fatto c'è la foto di Bertolaso in prima pagina col titolo «Questo uomo è un disastro», dopo Haiti Berlusconi lo scarica. Vabbè, c'è chi apre anche sul Velo Integrale, il quotidiano nazionale, «Mai più senza volto», ci sono delle donne col burka fotografate, e la decisione della Francia, che trova, ripeto, spazio anche sulle prime pagine dei giornali italiani. C'è anche Politica, e invece il Sole 24 Ore apre sul monito di Draghi sulle banche. Banche, serve più capitale. Il governo dice invece, su un altro tema interessante, siano pubblici gli stipendi dei manager delle società quotate in borsa. Ma partiamo appunto dalla vicenda Bertolaso, che secondo il Corriere della Sera e anche Repubblica ieri è stata a un passo dalle dimissioni. La tentazione delle dimissioni, leggo dal Corriere, poi l'incontro col Premier. Il sottosegretario dice un putiferio creato dal nulla. E così anche su Repubblica, sotto le parole di Hillary Clinton, che si dice ferita, appunto, il capo della protezione civile, confermo quello che ho detto. C'è anche il retroscena di una telefonata che sarebbe partita dall'ambasciatore americano a Gianni Letta, vale a dire il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per chiedere la testa del sottosegretario. Questo secondo Repubblica. L'ambasciatore americano Thorne ha chiamato Gianni Letta, ha chiesto la rimozione di Bertolaso. Vabbè, in ogni caso Berlusconi è dovuto intervenire. Chi oggi difende però in prima pagina della Stampa Bertolaso è Lucia Annunziata, che scrive sulla Stampa ed è anche l'autrice e la conduttrice di In Mezz'ora, vale a dire il programma di Rai 3 della domenica, che era in diretta ad Haiti con Bertolaso, ed è lì che Bertolaso ha detto aiuti patetici. Scrive Lucia Annunziata in un editoriale dal titolo No, disastro nei soccorsi, che è un editoriale che risponde a un altro editoriale di Boris Biancheri titolato Disastro diplomatico, un editoriale duro contro Bertolaso. Lucia Annunziata dice no, il disastro è nei soccorsi. È vero, gli Stati Uniti sono la nazione che più si è impegnata a fornire aiuti ad Haiti, ma il fatto che siano i maggiori protagonisti dell'operazione vuol dire anche che hanno fatto bene? Si chiede Lucia Annunziata. Cosa ha detto dopo tutto Bertolaso? Che gli aiuti ci sono ma che non arrivano alla popolazione in fretta. La domanda è: le affermazioni sono false? È forse normalizzata a Port-au-Prince? Avete visto da qualche parte tendopoli? Vi sembra normale che la maggior piazza della città ospiti 15 giorni dal sisma una massa di migliaia di persone senza tende, senza cibo, senza acqua? Sono invenzioni di Bertolaso le critiche di Sarkozy, il collasso del governo locale, quello delle Nazioni Unite? E insomma, dice Lucia Annunziata, questo è il vero disastro, cioè Bertolaso ha messo il dito su un nervo scoperto sostanzialmente, e qui fa arrabbiare. Poi conclude con una punta un po' maligna Lucia Annunziata, dice gli Stati Uniti hanno incaricato Bill Clinton, l'ex presidente, a coordinare gli aiuti ad Haiti. Purtroppo è innegabile che Bill Clinton ci sia andato una sola volta. A proposito, Clinton è il marito di Hillary Clinton. Siamo certi che un segretario di Stato americano è al di sopra di ogni sospetto, ma non credo di sbagliare se dico che se si fosse trattato di un caso italiano avremmo indicato in questo intreccio un conflitto di interessi. Insomma, come dire, certo, Hillary Clinton è molto offesa, anche perché criticando in qualche modo gli Stati Uniti si è criticato l'intervento coordinato da Bill Clinton, il suo marito. Allora, lasciamo questa polemica e veniamo alle cose più politiche, vale a dire, trovate moltissimo ancora sui giornali il due giorni dopo la disfatta, o meglio la crisi del PD, insomma le primarie perse in Puglia, il pasticcio delle primarie non perse, insomma Vendola che ha vinto contro il candidato del PD, l'affaire del Bono con le dimissioni del sindaco di Bologna. Parla in una lunga intervista in esclusiva sull'Unità il segretario Bersani. Non mollo, questa è la strada per costruire l'alternativa. L'intervista di Simone Collini. Le regionali sono una tappa. Dimostreremo che non siamo nella riserva indiana in cui il centrodestra ha pensato che fossimo dopo le europee. Vabbè, questo è un concetto che ripete da un paio di giorni. E poi su Romano Prodi, perché ieri abbiamo letto in rassegna stampa su Repubblica Prodi che avrebbe fatto questa domanda: mi chiedono chi guida il PD e io non so dare una risposta. È su Romano Prodi. A Prodi voglio bene, risponde Bersani, ho per lui affetto e rispetto inattaccabili, anche quando gli si attribuiscono cose che non condivido. E poi sulle primarie, si tratta di un tema che anche statutariamente dovremo chiarire meglio, noi le abbiamo inventate, non le molleremo mai, tuttavia ci sono primarie e primarie, perché le primarie sono meccanismi che possono suscitare la primavera oppure testimoniare che ci indeboliamo per le secondarie. Sulla Puglia non siamo mai stati contro Vendola, abbiamo registrato che non potevamo fare una coalizione vincente, e poi su Bologna ecco un po' la rivendicazione di quella sorta di supremazia o morale che ieri Galli della Loggia sul Corriere della Sera metteva in dubbio. Invece Bersani dice sull'affaire del Bono e le dimissioni: da noi c'è un civismo e un'opinione pubblica che non tollera ombre fra la città e l'amministrazione. Funziona che anche un'amministrazione, anche un amministratore che proclama a voce dispiegata la sua innocenza, dice prima di tutto la città. Ecco, il civismo è un'opinione pubblica che non tollera ombre. Da noi, lo ribadisce Bersani. Tra l'altro la vicenda di Bologna va avanti. Perché? Perché pare si stia allargando. E lo fa anche, tra l'altro, Sergio Cofferati, ex sindaco di Bologna prima di Del Bono, in un'intervista al Corriere della Sera dice: anche la mia privacy non fu rispettata, ma sono due vicende completamente diverse. Cofferati lasciò la moglie per mettersi con l'attuale compagna. Però dice: attenzione, perché pare di capire che la questione è che l'inchiesta sembra più vasta. E effettivamente, che cosa è successo ieri? Cioè, l'inchiesta non sarebbe solo quella di capire con quali soldi siano stati pagati dei weekend dell'ex segretaria e compagna del Bono, vale a dire Cinzia Cracchi. Ma ieri è successo questo: è stato convocato in procura il direttore generale di CUP 2000, il centro unificato di prenotazione dell'Emilia Romagna, la società dove era stata poi spostata a lavorare Cinzia Cracchi. Sentite il Corriere della Sera come inizia l'articolo. E di questo contratto a Mirko Divani cosa mi dice? E questa è la domanda del PM. Allunga gli occhi Mauro Moruzzi, proprio il direttore generale di CUP. È stato un contratto a chiamata diretta? Lo avete affidato per vostra discrezionale scelta? Oppure avete fatto una gara d'appalto? Allunga ancora il collo Mauro Moruzzi per vedere meglio. 8 ore di faccia a faccia col pubblico ministero che indaga sul sindaco dimissionario per peculato, abuso d'ufficio, truffa aggravata. Va capito infatti com'è possibile che il CUP di Bologna abbia affidato a Divani, che è questa persona che aveva intestato il bancomat che Del Bono ha girato alla segretaria. Ebbene, la società ha intestato a Divani, anzi a sua moglie, guarda caso dipendente dello stesso CUP, un appalto relativo alla fornitura di computer. Il caso si rivela ancora più intrigante perché è proprio il compagno e amico Divani a cui Del Bono si affida per prestare il bancomat poi ritrovato nella borsetta della sua ex segretaria. Insomma, secondo i giornali ce n'è da vedere e da rischiare di allargare l'inchiesta anche a intrecci che andrebbero un po' dipanati. La vicenda politica è anche legata al PD, sempre che cerca di affrontare le regionali. I due giornali di centrodestra, vale a dire Libero e Il Giornale puntano molto sull'alleanza Bersani-Di Pietro siglata ieri. Bersani giura fedeltà a Di Pietro, questo è il titolo del Giornale in prima pagina, politica da barzelletta. Mentre più duro, Libero, c'è una grande foto di Di Pietro, il nuovo leader del PD, ammanettati a Di Pietro. Bersani si consegna al suo killer, questo all'interno a pagina 2. Mentre sul fronte centrodestra freme Silvio Berlusconi, pare. Perché? Perché non gli sta bene il candidato che è stato scelto in Puglia per correre contro Vendola e contro la Poli Bortone dell'UDC. A Berlusconi questo Rocco Palese non piace proprio. Le cronache lo avevano già detto, insomma pare ci sia stato un incontro qualche giorno fa in cui gli hanno presentato Palese a Palazzo Grazioli. Ieri c'era una straordinaria descrizione del Riformista in cui si diceva Berlusconi un po' irritato, si è presentato Palese con la giacca non d'ordinanza, il colletto un po' sdrucito anche fuori dalla giacca stessa. Insomma pare che Berlusconi abbia chiosato l'incontro finale con i suoi collaboratori dicendo: ma da chi ci facciamo presentare in Puglia? Il problema è che Palese è stato candidato, insomma è il candidato ufficiale, però pare che Berlusconi veramente non la mandi giù. Puglia, il premier riapre i giochi, questo a pagina 10 del Corriere, ma anche su Repubblica. Il premier pensa al ribaltone in Puglia, trattiamo con Casini o si perde. E vi segnalo una straordinaria intervista a Rocco Palese, appunto colui che è stato scelto, pare, ma adesso chissà, per concorrere per il PDL in Puglia. Una straordinaria intervista, come gli accade spesso di farle, a Fabrizio Roncone sul Corriere. Intervista Rocco Palese che dice: dimagrirò, metterò le giacche blu, ma il cavaliere lo sa quanti voti ho? Inizia così: ma no, non ci credo, dai. E invece sì. Cioè lei dice che lì a Roma circolano ancora brutte voci sul mio conto? Eh sì, brutta situazione, caro Palese, brutta. Guardi che io qui a Bari sono già in campagna elettorale. Ma quali sarebbero i problemi? È il giornalista che informa Palese. Le sue giacche, quel filo di pancia, forse i suoi modi. Guardi, se è per questo sto per farmi curare da un'agenzia le immagini del candidato. Cambierò, vogliono la giacca blu? La metterò blu. Ma chiederanno anche di dimagrire e io obbedirò, non c'è problema. Il problema è dimagrire, dimagrisco. Insomma, c'è Rocco Palese che però dice: guardi, ho ricevuto 7500 messaggi di solidarietà negli ultimi 24 ore. Ho percorso nell'ultimo anno la Puglia su e giù, ho fatto 300.000 chilometri, l'autista un giorno ha avuto un malore per la stanchezza. Ecco, io valgo questo, però insomma pare che a Berlusconi non piaccia, non gli piace la sua immagine. C'è, per chiudere la vicenda dei regionali, ieri l'avevamo citato, il fatto che accusava Renata Polverini di evasione fiscale per una compravendita di una casa qualche anno fa, di avere evaso per 19.000 euro, credo, il fisco. Oggi la candidata Polverini scrive, dice: il tema su cui si è costruito l'intero pezzo, scrive al Fatto ovviamente, la smentita, si riguarda una presunta irregolarità fiscale che in ogni caso non avrebbe alcuna rilevanza penale. L'episodio risale a circa 8 anni fa. Suppongo che era in una fase di avvicendamento dei consulenti che seguivano la mia attività, dunque questo potrebbe essere la causa del disguido. Sto verificando se le persone che mi aiutavano possono avere fatto qualche errore, di cui comunque mi assumerei ogni responsabilità. Insomma, ipotizza che può darsi che ci sia stato qualcosa. Alla fine però dice: però vi querelo, sostanzialmente. Tanto che il Fatto in prima pagina mette la smentita appunto della Polverini così: forse ho evaso le tasse, ma vi querelo lo stesso. Questo in prima pagina. Ci fermiamo qui per la politica. C'è il traffico, poi ripartiremo dal burka. Il burka. La Francia dice no al burka, questo è il titolo di apertura della Padania, il quotidiano della Lega Nord. E questo è quello che hanno deciso dalla Francia, vale a dire ampio risalto sui giornali. Per esempio il Corriere lo mette a pagina 2, pagina 3. In Francia, dopo uno studio di una commissione, hanno deciso che il velo integrale islamico, il burka, ma anche per esempio il niqab, cioè il velo integrale, quello che lascia scoperto solo gli occhi, non deve più essere mostrato nei luoghi pubblici. E ovviamente questo è il nostro sondaggio, vi chiediamo se anche in Italia voi fareste questo divieto. E devo dire che per ora l'89% di chi vota sui siti radio24.it o sole24.com dice sì, lo vieteremmo. Per esempio lo vieterebbe Mara Carfagna, che fa un'intervista alla stampa, al ministro Carfagna, il ministro per le pari opportunità. Ci sono tempi brevi, c'è già un divieto del 1975 che vieta l'uso di indumenti come caschi, passamontagna in luoghi pubblici, ma bisogna inserire la dicitura burka e niqab perché la giurisprudenza negli anni, derogando dalla legge, li ha giustificati perché legati a pratiche devozionali. Chi è contrario a una legge, per esempio, invece è Frattini. Il ministro degli esteri dice la proibizione è sbagliata, anche perché il principio è questo: se si impedisce per legge una cosa, se si vieta per legge, ci sarà sempre qualcuno pronto a ribellarsi, a ricadere nell'illegalità. È una questione invece di integrazione, dice Frattini, cioè di fare discorsi anche di integrazione. Comunque trovate molti commenti, c'è anche un'intervista a Emma Bonino, che non parla in quanto esponente radicale, candidata alle regionali, ma su Repubblica parla in quanto esperta, ha vissuto anche vari anni al Cairo. Dice nessuna discriminazione, è contro il burka, assolutamente, ma dice non è una questione religiosa, è una questione di usanze, e dice tra l'altro la Bonino, come non si va con il casco o con il passamontagna negli uffici non si possono avere copricapi, quindi neanche il burka. Vabbè, ma ne parleremo alle 8:30 approfonditamente, sarà il nostro ospite tra gli altri Daniela Santanchè. Vi cito il titolo di apertura del Messaggero: banche, il monito di Draghi, perché questo mi permette di andare appunto al Sole 24 Ore. Come detto, è il titolo dedicato a quello che Draghi ha detto ieri alle banche. Per quest'anno si preannuncia una ripresa fragile, dunque per le banche il monito del governatore di Banca Italia è questo: l'imperativo di rafforzare il proprio patrimonio. Lo trovate, l'appello di Banca Italia, a pagina 3. Mentre a pagina 4 un altro tema molto molto interessante, vale a dire un emendamento del governo a una legge comunitaria, vuole rendere pubblici per legge tutti i compensi dei manager delle società quotate in borsa. È molto interessante, entro la fine del mese il voto del Senato, la proposta è questa. E tra l'altro il Sole 24 Ore cosa fa? Ripubblica, perché non era la prima volta, ma ripubblica la classifica di quanto guadagnano i primi, oggi mette i primi 50 manager di società quotate in borsa. Il primo, chi detiene il record, è Roberto Tunioli, 8,32 milioni di euro, vicepresidente e amministratore delegato di Datalogica. Al secondo posto c'è Luca Maiocchi, 7,95, quasi 8 milioni di euro, è l'amministratore delegato di Seat Pagine Gialle. Al terzo posto in questo podio di guadagni nei manager Enrico Parazzini, direttore generale di Telecom Italia, con 7,17 milioni di euro. Ma sul Sole a pagina 4 trovate i primi 50, se vi va di andare a curiosare. Oh, la vicenda Vallettopoli, no, non Vallettopoli, ma fotoricatti, così è definita, oggi ha degli sviluppi, perché oggi, scusate il bisticcio, ma la rivista Oggi, che trovate oggi in edicola, pubblica delle foto, come ha detto, di Lapo Elkan, quelle foto che Lapo Elkan avrebbe, usiamo il condizionale, ritirato pagando 300.000 euro circa perché lo ritraevano mentre usciva forse da una casa dove probabilmente vive un transessuale a Milano. E così almeno sostiene Oggi. Corona contro tutti, agenzie e direttori ricattano i VIP, questo su Libero, ma lo troviamo anche su Il Giornale. Ci sono anche i verbali pubblicati, me lo sono letto tutto, di tale Massimo Gabriele Parpiglia, che è un giornalista che racconta l'intreccio di come funzionerebbe il sistema. Lo pubblica Gianmarco Chiocci, questo verbale, è il socio di Corona. Funziona così: un servizio su due neofidanzati poteva fruttare fino a 30.000 euro. Poi però accusa Corona: Fabrizio è un millantatore, ho sentito parecchie chiacchiere sui servizi che poi vendeva agli stessi interessati, fa dei nomi, alcuni calciatori, Adriano, Coco, Gilardino. Vabbè, andatevelo a vedere. Secondo il fatto, è il titolo di apertura. Foto ricatto con ministro, è il titolo di apertura in prima pagina. Scatti e ricatti nella rete anche un ministro. Per il fatto ci sarebbe un ministro che non è il ministro Alfano, di cui circolano, pare, anche qui alcune foto, ritratto alle Maldive, che sarebbero state anche qui ritirate. Usiamo sempre i condizionali. Ci sarebbe invece, secondo il Fatto Quotidiano, un servizio sorprendente, tra virgolette, sorprendente vuol dire un po' tutto e niente, che riguarderebbe un ministro in carica. Il Fatto non è ancora in grado di dire chi l'abbia ritirato e a che prezzo. È certo comunque che si tratta di cifre da capogiro. Così scrive una pagina 3 Peter Gomez e Antonella Mascali. Vabbè, voglio chiudere con Tiger Woods. Ragazzi, oggi sulla Stampa c'è davvero una pagina imperdibile a firma Maurizio Molinari. È stato un SMS a tradire Tiger Woods. Tiger Woods è quello che ha più amanti che mazze da golf. Tiger Woods, galeotto fu l'SMS, così scrive la Stampa riportando il National Enquirer, che ha pubblicato i verbali della polizia, ha ricostruito cosa è successo il 26 novembre, giorno del suo tracollo del matrimonio. La moglie capisce che ha un amante, poi scoprirà che ne aveva 10, ma insomma, è tale Rachel Uchitel. Come fa a scoprirlo? Intanto Tiger Woods addormenta e prendendo un sonnifero, al che lei va sul cellulare e scopre un SMS in cui in cui Tiger Woods scrive all'amante: tu sei l'unica che abbia mai amato. Allora la moglie che fa? Si finge Tiger Woods e scrive all'amante e dice: mi manchi, quando ci rivediamo? E lei risponde: ma scusa, abbiamo appena definito poco fa quando ci rivediamo. Al che scatta il putiferio, la telefonata, gli insulti tra le due donne. Tiger Woods a quel punto un po' assonnato, un po' stordito, si sveglia perché è sotto sonnifero. Si chiude in bagno perché la moglie lo vuole pigliare proprio letteralmente a botte. Dopo un po' esce dal bagno e la moglie, ancora più arrabbiata, lo insegue. Lui è seminudo, prende la macchina, scappa di casa, la moglie lo insegue, lui, ripeto, è un po' rimbambito dal sonnifero, e quindi la moglie lo raggiunge, spacca il parabrezza con la mazza da golf. Lui esce, riesce in qualche modo a scendere dalla macchina, che fa? S'addormenta e russa, tutto verbali di polizia, sembra una scena da film, e russa stordito in mezzo alla strada, russa in maniera talmente forte che anche i vicini se ne accorgono. Così finisce il matrimonio di Tiger Woods. Galeotto fu l'SMS. Concludo con questa pagina sulla Stampa. Voi dovete votare su radio24.it invece il sondaggio sul velo integrale islamico vietato in Francia. Lo vorreste vietare anche in Italia? Questa è la domanda che ci poniamo. Ne parliamo più avanti. Ora GR24.